Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Oggi Destini incrociati è a Hollywood. È il 1948 e una delle attrici più famose e apprezzate del momento sta entrando col marito in un cinema d'essai per vedere un film italiano. Ci vogliono 89 minuti, tanto dura il film, per scatenare in lei uno sconvolgimento tale che la porterà a cambiare vita. Tutto comincia una sera di primavera. Ingrid Bergman è sotto braccio al marito Peter Lindstrom e mentre passeggiano per la Sienaga Boulevard decidono di andare al cinema. Danno un film italiano. I film stranieri nel 1948 non godono di grande considerazione a Hollywood. Vengono al limite proiettati in piccoli cinema per un pubblico di immigrati che non ha bisogno di sottotitoli. Quella pellicola, nella fattispecie, non ha l'aria di essere una di quelle che procurano grandi incassi. Eppure, dopo solo 10 minuti che Ingrid si è accomodata sulla sua poltrona e le luci si sono spente, il suo splendido viso ha cominciato ad assumere un'espressione triste. Gli occhi le si sono inumiditi di lacrime. Alla fine del film non ci sono dubbi. Capisce che ha appena vissuto una delle esperienze più sconvolgenti di tutta la sua carriera. Gli interpreti non sembravano attori, non si esprimevano come attori. Le immagini erano buie, piene di ombre. A volte non si riusciva né a sentire né a vedere. Ma anche la vita è così. Non sempre si può vedere e sentire. Eppure ci si rende conto che qualcosa di inafferrabile sta avvenendo. Lo stupore di Ingrid è giustificato. Lei è un'attrice di Hollywood ormai consacrata. In America il cinema è un'altra cosa. Pur avendo cominciato a girare film nella nativa Svezia nel 1934, adesso la sua popolarità è alle stelle. Le sue interpretazioni rendono ogni pellicola un record di incassi. E in un sondaggio condotto dalla rivista Daily Variety, lei risulta essere la migliore attrice dell'epoca del sonoro. La battuta più comune a Hollywood in quel periodo è: sapete, ieri ho visto un film senza la Bergman. Ma chi è Ingrid Bergman prima di quella sera di primavera del 1948? Ingrid nasce a Stoccolma nel 1915 da un giovane pittore svedese con l'hobby della fotografia, Justus Bergman, dal carattere aperto, disponibile come tutti i bohemien dell'epoca, e da Friedel Adler, una ragazza tedesca di educazione borghese. Rimane orfana di madre a soli 3 anni. Ingrid è una bambina molto timida, molto sola, più vicina al carattere della madre, la cui mancanza la segna nel profondo. Particolarmente attaccata al padre, diventa la sua modella preferita davanti al suo obiettivo. A Ingrid piace travestirsi e lui la aiuta, le fa indossare buffi occhiali, grandi cappelli e poi la immortala. Un po' per cacciare la malinconia della perdita prematura della mamma e un po' anche perché vede che alla bambina piace. Yes, I was a very sad child. Sì. Ero una bambina molto triste e molto sola. Sono riuscita a salvare me stessa inventandomi dei personaggi, anche perché ero terribilmente timida. Dopo la fotografia è la volta della cinepresa. Justus si diletta nel filmare la piccola. Per Ingrid è abbastanza abituale stare davanti a una macchina da presa. È il suo modo di fuggire alla sua timidezza. Fin da quando ero bambina ero così felice di poter uscire dalla realtà e vivere il mio mondo di immaginazione che ogni volta mi sentivo a casa. La cinepresa non mi faceva nessuna paura. Justus la incoraggia in ogni modo. Ingrid comincia a leggere poesie e a recitarle. Le viene bene. Quel mondo fatto di immaginazione la porta lontano dalle tristezze della sua infanzia fatta di lutti. E così ogni volta che può vi si rifugia. Mio padre mi portava all'opera. Voleva che diventassi una cantante d'opera. E io non ero molto felice di cantare. Ma quando mi ha portata a vedere il mio primo spettacolo a teatro e ho visto le persone che parlavano e non cantavano, mi sono detta: oh mio Dio, non c'è bisogno che canti, posso solo recitare. Ecco quello che voglio fare. Il padre muore quando Ingrid ha soli 13 anni. Un nuovo lutto si aggiunge alla sua giovane età. Quando molti anni dopo sarà ad Hollywood e avrà la possibilità di sviluppare la pellicola filmata da lui nel periodo della sua infanzia, per Ingrid rimarrà l'unica vera immagine della sua famiglia, così come per le fotografie. Durante una delle tante premiazioni alla sua carriera, mostrerà questi filmati. Quando mio padre scoprì che stava succedendo qualcosa di nuovo ed era il cinema, per il mio compleanno affittò una cinepresa e mi riprese nelle braccia di mia madre. Questa è stata la mia prima apparizione sullo schermo. Qui invece ho 3 anni e sto mettendo dei fiori sulla tomba di mia madre. La tomba è quella che vedete sulla destra. Ecco perché sono così felice che ci sia stato qualcuno che l'abbia filmata prima che morisse. I suoi ricordi sono assegnati a un obiettivo, sia esso quello della macchina fotografica o quello della macchina da presa, ma sempre un obiettivo. Una sorta di destino segnato fin da fanciulla, un amore che scorre sulla pellicola, come ricorda la figlia Isabella. Aveva sempre le loro foto vicino al letto e quando abbiamo riunito tutte le sue cose abbiamo notato che erano piene di tracce delle sue labbra. Probabilmente le ha baciate. Quello è stato il suo orizzonte familiare. Una famiglia in uno schermo, una vita in uno schermo. Orfana di entrambi i genitori, cresce con gli zii che la assecondano nelle scelte. Quando decide di partecipare al suo primo provino per entrare all'Accademia Reale di Arte Drammatica, sono tutti con lei. Fare l'attrice è tutto quello che vuole. Ingrid Bergman, let's go make a picture on the island of Stromboli. Ingrid Bergman, you're so pretty. You'd make any mountain quiver. You'd make fire fly from the crater. Ingrid Bergman, this old mountain, it's been waiting all its life for you to work it, for your hand to touch its hard rock. Ingrid è prossima ai 18 anni. È una ragazza dalla magrezza impressionante. La zia le consiglia di mettersi 3 paia di calze, una sopra l'altra, per cercare di arrotondare un po' i polpacci. Ha una gonna di tweed e un golfino fatto a mano da lei. Scarpe rigorosamente basse, poiché è molto alta, e si vergogna della sua altezza, tanto che tende a camminare con le spalle un po' ricurve. Ha paura della gente. La sua timidezza a volte è plateale. Le si gonfiano le dita, le labbra, oltre a diventare rossa in viso. La somatizza nei modi più strani, sviluppando insolite allergie. Quella mattina, però, deve mettercela tutta. Deve fare il suo provino per entrare all'Accademia. Decide di portare un pezzo ungherese, qualcosa di diverso dai soliti Macbeth. Vuole far ridere la giuria. Aspetta paziente, dietro le quinte, il suo turno e quando la chiamano balza in mezzo al palcoscenico esordendo con una sonora risata. Dopo aver detto la sua prima battuta, dà uno sguardo ai giurati e vede che stanno chiacchierando tra di loro senza occuparsi di lei. Ingrid è certa che l'audizione sia andata male. Se ne va a casa sconsolata. Il suo sogno si è infranto. Dopo una settimana, la notizia inattesa. L'hanno presa. Molti anni dopo a Roma incontro Alf Sjöberg, che aveva fatto parte della commissione d'esame. Così gli chiedo: perché a quella prima audizione mi avete trattata così male? E lui mi ha detto: ma cosa dici, sei matta? È bastato che tu uscissi sul palcoscenico e che scoppiassi a ridere perché non ci fossero più dubbi sul tuo conto. Non valeva la pena di perdere altro tempo, visto che avevamo un mucchio di aspiranti da esaminare. Comincia così il primo passo verso la realizzazione del suo sogno. Il primo provino per un film lo ottiene grazie a un'amica che la presenta a Gustav Molander, famoso regista cinematografico svedese. A soli 18 anni, nel 1934, ottiene la sua prima parte per un film, Il Conte della Città Vecchia. Ingrid è Elsa, una cameriera in un albergo dalla dubbia reputazione. E nella sua prima scena la si vede mentre si sforza di entrare in un vestito a strisce rosse e nere. Non è certo il debutto che può immortalarla nella storia del cinema, eppure quel vestito è nell'archivio della Svensk Film Industry, accanto a una sottoveste indossata dall'altra attrice svedese famosa, Greta Garbo. Arrivano poi, tra gli altri, Notti di primavera, Verso il sole e Senza volto. Molander è il suo mentore. Lavorare con Gustav era meraviglioso. Aveva un dono straordinario per la commedia leggera. Mi insegnò a non strafare e ad essere autentica, naturale. Ingrid passa da un film all'altro. La critica svedese si accorge di lei. Il film che trasforma Ingrid da attrice in una stella di fama mondiale è Intermezzo, del 1936, sempre girato con Molander, dove Ingrid è una talentuosa insegnante di pianoforte che si innamora di un violinista di fama internazionale, ma felicemente sposato. Avanti, perché si ferma? La versione svedese con i sottotitoli arriva in America e il Daily News di Los Angeles ha il coraggio di dire che non solo si tratta del miglior film che la Svezia abbia mai prodotto, ma che è altrettanto buono, se non addirittura migliore, di quelli prodotti a Hollywood. E poi aggiunge sull'attrice: Miss Bergman non è solo bella, qualità abbastanza comune a Hollywood, ma è anche dotata di un'intensità emotiva che è invece assai rara. L'insieme di queste due qualità fa sì che ella potrebbe facilmente trasformarsi in una grande attrice, addirittura in una stella. I produttori di Hollywood dovrebbero unirsi per cercare di farla conoscere in questo paese. David Selznick, il più grande produttore di Hollywood dell'epoca, quello di Via col vento, Rebecca la prima moglie, solo per citarne alcuni, anche se non legge l'articolo, viene comunque a conoscenza dell'esistenza di questa nuova promessa del cinema. A parlargliene è Catherine Brown, talent scout della Selznick International, che subito prende un aereo per Stoccolma per andare a parlare con Miss Bergman. Mr. Selznick mi disse di parlare con lei e di farle un contratto, ma subito mi sono preoccupata che per lei fosse la giusta decisione, e mentre eravamo sole in città ebbi il coraggio di prenderla da parte e chiederle: sei sicura che questa sia la cosa giusta da fare? Hai un meraviglioso marito, una bellissima bambina e hai tutto il lavoro che vuoi. E lei disse: sì, è quello che voglio. Lei nella sua vita voleva accettare ogni nuova sfida. Nel frattempo, infatti, Ingrid, oltre ad essere un'attrice quotata in Svezia, è anche moglie di un giovane dentista, Peter Landstrom, e madre di una bambina, Pia. A soli 21 anni la sua vita sembra già indirizzata, eppure lei vuole di più. Quel tenero pensiero di Kay Brown la fa riflettere, ma è decisa. Se a Hollywood ci sono persone tanto carine, è il caso di accettare l'offerta. Da quel giorno diventeranno amiche. Quando Ingrid, il 6 maggio del 1939, arriva a bordo della Queen Mary a New York, ad aspettarla ci sarà proprio lei, Kay. Ingrid parte da sola, lascia Peter e la figlia a casa. Ha solo 24 anni e vuole provarci. Hollywood la reclama. Non so dove ho preso la mia determinazione e la mia forza. Ero così giovane e volevo spiccare il volo ad Hollywood, ma immediatamente ho sentito che volevano fare qualcosa con la mia faccia. Volevano farmi cambiare nome. Quando l'ho sentito, ero terribilmente spaventata e mi sono detta: voglio tornare a casa. Così ho rifiutato, rifiutato e rifiutato, finché loro non l'hanno accettato, il mio nome e com'ero. My name and what I looked like. David Selznick segue la vecchia tradizione hollywoodiana, che è quella non solo di scoprire le stelle, ma anche di costruirle. Manipolare il viso, accentuare certi lineamenti, inventare piccoli particolari, sono solo alcuni dei trucchi per costruire una star. Solo qualche anno prima aveva spostato di qualche centimetro l'attaccatura dei capelli di una giovane di origine spagnola, operazione che, combinata al suo naturale talento, aveva prodotto Rita Hayworth. Ma con Ingrid c'è davvero poco che lui possa fare per valorizzarla. Lei è semplicemente bella. E così ha un'idea. Nulla in lei verrà alterato. Rimarrà esattamente com'è. Diventerà la prima attrice naturale di Hollywood. Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired. David Selznick decide di fare il remake di Intermezzo, che è subito un successo incredibile. Il lato migliore di Ingrid è il sinistro, e così ogni inquadratura è fatta perché l'attrice abbia il giusto profilo, niente di più. Ingrid arriva a Hollywood nel momento più giusto, come dirà lei. Sono arrivata esattamente al momento giusto, perché avevano tutte quelle attrici così artefatte e qualunque cosa era costruita. Io sono arrivata ed ero completamente naturale. Per Intermezzo sono necessari 3 mesi di riprese estenuanti. Il cinema americano è differente da quello svedese. Studi di registrazione enormi, numerosissime le persone impiegate. Ingrid pensa che lavorare là sia un sogno, anche se la prima scena gliela fanno rifare 30 volte. Per fortuna, oltre a Kathryn Brown, la talent scout della produzione Selznick, Ingrid stringe amicizia con altre persone, come la sua insegnante di inglese e la moglie di David, Irene, che si prende a cuore l'ingenua ragazza svedese. Il 5 agosto del 1939, Ingrid torna in Svezia dal marito e dalla figlia. Le riprese sono finite. La sua prima esperienza americana pure. Chissà se rivedrà l'America. Ma una volta arrivata a Stoccolma, scoppia la guerra. I nazisti invadono la Polonia. La Francia e la Gran Bretagna dichiarano guerra alla Germania. David Selznick le manda un telegramma dove le consiglia di prendere marito e figlia e di mettersi al sicuro in America. Ingrid non ci pensa due volte. In fondo, anche solo dopo quei primi 3 mesi passati là, le sembra che la sua casa sia oltre oceano. Peter, il marito, decide di rimanere in patria, è medico e può sempre servire in tempi di guerra. Così Ingrid parte sola con Pia, anche se la cosa non è facile. Tutti i porti, francesi e inglesi, sono chiusi. Devono andare a Genova e partire con una nave italiana. Era la notte del 31 dicembre del 1940. Penso che quella sia stata la mia fine d'anno più triste. Pia aveva 12 mesi e dormiva. Io e Peter eravamo nella sala da ballo dell'hotel a ballare, in attesa della mia partenza. Eravamo molto tristi. Io stavo per partire con sua figlia e lui sarebbe stato chiamato alle armi. E forse non l'avrei più rivisto. Pia e Ingrid salgono sul transatlantico Rex. Peter la saluta dalla banchina. Sembra l'inizio di una nuova vita, anche se molti sono gli interrogativi che affollano la sua mente. È l'inizio del 1940. Ingrid arriva in America che intermezzo è appena uscito nelle sale. Ad attenderla non c'è solo il produttore che vuole continuare a girare film con questa nuova stella del cinema, ma anche il favore del pubblico e della critica. Graham Greene, allora critico cinematografico dello Spectator, nel gennaio del 1940 scrive: «Il film vale la pena di essere visto soprattutto per Miss Bergman, la nuova stella, creatura autentica come il suo nome». I film si susseguono, il successo aumenta. La ragazza Acqua e Sapone sta facendo strada e l'Europa infiammata dalla guerra sembra davvero lontana. Arriva la volta di un film dove, per la prima volta, Ingrid prende posizione sul ruolo da recitare. Fino ad allora le sono state affidate solo parti di giovani fidanzate, di brave ragazze. In Dottor Jekyll e Mr. Hyde, dove deve recitare al fianco di Spencer Tracy, le assegnano di nuovo la parte della fidanzata e all'altra protagonista femminile, Lana Turner, quella della barista dalla dubbia moralità. Quando mi hanno scelta per Dottor Jekyll e Mr. Hyde, Lana Turner era la barista e io la fidanzata del Dottor Jekyll. Una ragazza molto carina, ma io ero stufa di ruoli come quello. Non volevo essere solo quello. Volevo essere un'attrice e interpretare qualunque cosa. I wanted to be an actress and play everything. Così Ingrid prende coraggio e anche se è l'ultima arrivata in quell'ambiente, si sente forte delle sue capacità di attrice. Così chiede al regista Victor Fleming se è possibile scambiare le parti. Tutti inorridiscono. Lei non può essere diversa dalla ragazza Acqua e Sapone, eppure alla fine riesce nel suo intento e la sua interpretazione è superba. È il primo film dove si mostrano tutte le potenzialità del suo carattere. Nel frattempo, la guerra in Europa imperversa. Peter, stanco di essere lontano sia da lei che dalla figlia, decide di raggiungerle in America. Il suo viso e il suo talento ormai fanno il giro del mondo. Hollywood ha il potere di amplificare qualunque cosa, e lo stesso fa con Ingrid. Tutti la conoscono e l'apprezzano. Nel 1941 viene scelta da Ernest Hemingway, che l'ha vista recitare in Intermezzo, per interpretare Maria in Per chi suona la campana. Nel 1943, data dell'uscita del film, arriverà la sua prima nomination agli Oscar. Solo l'anno prima gira quello che diventerà un vero e proprio cult movie, Casablanca. Non capisco, e tu allora? Io rimango qui finché l'aeroplano non è partito. No, no, che cosa ti è accaduto ieri sera? Ieri sera dicevamo molte cose. Tu dicevi che io devo badare a tutte e due. Beh, non ho fatto altro da ieri. E la conclusione è questa: tu devi partire con Victor, tu appartieni a lui. Oh, Rick, no, no, no. Ora ascoltami bene, cara. Ti rendi conto a che cosa andresti incontro se rimanessi qui? 9 probabilità su 10 finiremo in un campo di concentramento. Non è vero, Luis? Credo che questo sia il desiderio di Strasser. Dici questo solo per farmi partire? No, lo dico perché è vero, cara. Sii sincero, anche tu sai che appartieni a Victor. Tu sei necessaria non solo a lui, ma al suo lavoro. Se egli parte e tu rimani qui, un giorno saresti presa dal rimorso. No. Non oggi, forse nemmeno domani, ma presto o tardi e per tutta la vita. Tutto è finito. E i giorni di Parigi. L'incanto di quel tempo svanito alla stazione, quel brutto giorno, l'abbiamo ritrovato ieri sera. Avevo detto di non lasciarti più. E non mi lasci. Ma anch'io ho qualcosa da fare. Dove io vado non potresti seguirmi, non potresti essermi d'aiuto in ciò che devo fare. Devo essere innamorata di mio marito o di Humphrey Bogart? Quando l'ho chiesto mi hanno detto, non lo sappiamo. Cerca di stare nel mezzo. Spesso quando vedo quel film, vedo la mia faccia totalmente senza espressione. Le sue doti sono indiscutibili. Lei è la Bergman. La statuetta arriva nel 1946 per Gaslight, Angoscia. Congratulations, Ingrid. Your artistry has won our votes and your graciousness has won our hearts. Thank you. Thank you very much. Da quel momento per lei è una continua ascesa all'Olimpo del cinema mondiale. Incontra il maestro del brivido, Hitchcock, col quale gira ben tre pellicole, Io ti salverò, Notorious e Il peccato di Lady Considine, e col quale instaura un rapporto di amicizia sincero. In Le campane di Santa Maria è una suora, e il suo volto angelico in quella parte la consacra definitivamente. Ma alla gratificazione professionale Ingrid è costretta a sacrificare la serenità familiare. La relazione col marito è sempre più tesa. Lei è in California, lui e la figlia sono a New York. Meno male che l'ambiente nel quale lavora l'ha accolta come una grande famiglia. Con Peter non ci sono più molte cose in comune. Molte volte alle feste le chiedono «Ma chi è l'uomo che è con te?». La sua vita ormai è dedicata alle cene a casa di Hitchcock o alle colazioni con Cary Grant, anch'egli un vero amico. Celebre la sua frase «Credo che si dovrebbe istituire un premio speciale da assegnare ogni anno alla Bergman, che faccia un film o no». Insomma, pur essendo per molti versi sempre la stessa Ingrid, adesso per Peter è davvero lontana. Quella sera di primavera del 1948, quando Ingrid e il marito decidono di andare al cinema e a vedere un film italiano, come coppia sono già arrivati al capolinea. Lei è l'attrice acclamata di Hollywood, lui ormai solo il padre di sua figlia. Sarà proprio quella pellicola a dare il colpo di grazia alla loro relazione, ma anche una sterzata alla carriera della diva. Destini incrociati. Destini incrociati è Hollywood, fuori da un cinema de sé. La più acclamata attrice del momento, Ingrid Bergman, ha appena finito di vedere col marito un film italiano. Uscita dalla sala, sente che in lei qualcosa è cambiato. Decide che vuole conoscere il regista di quel capolavoro. Tra Ingrid e Peter, il marito, ormai la relazione è compromessa. Troppa distanza fra la vita di un medico e quella di una diva di fama mondiale. Il film che hanno appena visto è Roma città aperta. Guarda sti vigliacchi, portano giù pure l'ammalato. Uscita dal cinema, Ingrid vuole assolutamente vedere come si chiama questo straordinario regista che l'ha tenuta inchiodata alla sedia per un'ora e mezzo. È Roberto Rossellini. L'indomani ne parla a tutti, ma la sensazione è che si tratti di un'opera isolata di un regista del quale probabilmente non avrebbe più sentito parlare. Qualche mese dopo, Ingrid si trova a New York per partecipare a un programma radiofonico e mentre passeggia per Broadway, vede di nuovo quel nome su uno dei cartelloni fuori da un piccolissimo cinema. Il titolo è Paisà. Stavolta è sola, compra un biglietto e per la seconda volta rimane inchiodata alla sedia. A quel punto i film straordinari sono due. Quell'uomo che nessuno conosce ha realizzato due grandi film e a vederli non c'è mai nessuno. Ecco che a Ingrid viene un'idea. Se tra gli interpreti ci fosse stato un grande nome, la gente sarebbe accorsa. In verità, nel primo film, Roma città aperta, c'è Anna Magnani, ma in America è pressoché sconosciuta. Mentre film del genere, secondo l'attrice svedese, dovevano essere visti da milioni di persone. Così prende una decisione. Ho visto a Hollywood Roma città aperta. Mi ha molto coinvolto. Non mi sono mai dimenticata di quel film, ma non sapevo come rintracciare Rossellini. Ho pensato persino fosse un caso, che poi non si sarebbe più visto nulla. Invece un giorno a New York ho visto Paisà. Ho capito che era un artista di grande valore e ho scritto una lettera per lui. Volevo lavorare per lui. Ingrid decide che una lettera è la cosa migliore. Scriverà a quel regista così talentuoso e sconosciuto per offrirsi come attrice. ne parla con l'amica Irene, moglie di David Selznick, la quale cerca di dissuaderla dal mandare cose così esplicite del tipo «voglio venire in Italia a lavorare per lei». Poi però ci pensa un attimo. Forse Ingrid è l'unica che può scrivere cose di questo genere senza essere fraintesa. È il destino che sta scrivendo per lei, in realtà. Ingrid ne parla anche al marito. È stufa di recitare le solite parti. Vuole fare qualcosa di realistico, qualcosa come paisà. Caro signor Rossellini, ho visto i suoi film Roma città aperta e paisà e li ho apprezzati moltissimo. Se ha bisogno di un'attrice svedese che parla inglese molto bene, che non ha dimenticato il tedesco, che non si fa quasi capire in francese e in italiano sa dire solo ti amo, sono pronta a venire in Italia per lavorare con lei. La lettera che le sta per cambiare la vita è pronta. Adesso però si tratta di trovare l'indirizzo del signor Rossellini. Un giorno, mentre firma un autografo per strada a un suo ammiratore, scopre che questi è italiano. Così non perde occasione per chiedere se conosce Roberto Rossellini. «Certo», dice l'uomo, «è uno dei nostri migliori registi. Allora sa dove posso rintracciarlo», continua Ingrid. «Ovviamente alla Minerva Film», ribatte il fan. Comincia così la peripezia della lettera. In quel periodo, tra Rossellini e la Minerva, non corre buon sangue. Ogni volta che la segretaria chiama per dire che è arrivata una lettera da Ingrid Bergman, Roberto riattacca seccato. Il destino però vuole che la lettera arrivi a destinazione, tanto che la segretaria, estenuata, alla fine gliela porta direttamente a casa. Roberto, non parlando una parola di inglese, decide di farla tradurre. Vuole capirci un po' di più su questa lettera con un timbro americano, ma chi è questa Ingrid Bergman? Rossellini ha idiosincrasie singolari per essere uno dei registi più famosi d'Italia. Non gli piacciono gli attori, non gli interessano i film degli altri registi ed è rarissimo che vada al cinema. La traduttrice è così costretta a spiegargli di chi si tratti. È la bellissima attrice bionda di origini svedesi che a Hollywood sta facendo tutti i film americani di successo. Ecco chi è Ingrid Bergman. L'8 maggio del 1948 viene recapitato un telegramma a casa di Peter Lindstrom e di Ingrid Bergman. La sua lettera, che ho letto con grande emozione, è arrivata il giorno del mio compleanno ed è stato il regalo più bello che ho ricevuto. È da molto tempo che sognavo di fare un film con lei e da questo momento farò tutto il possibile perché questo si realizzi. Le scriverò più a lungo per sottoporle le mie idee. Le sono profondamente grato e la prego di accettare, oltre alla mia ammirazione, i miei migliori saluti. Roberto Rossellini, Hotel Excelsior, Roma. Al telegramma fa seguito una lunga lettera dove il regista le racconta il suo modo tutto personale di fare cinema, che parte dalla realtà ed è pressoché senza sceneggiatura, cosa che limita, a suo avviso, enormemente il campo d'azione. I dialoghi si costruiscono e si possono modellare nel corso delle riprese, anche se tutto parte da idee molto chiare. Le parla in particolare di un film su una ragazza del nord Europa che si trasferisce per amore in un'isola del Mar Tirreno, per l'esattezza Stromboli. Un film che vorrebbe tanto girare con lei. On the island of Stromboli, recklessly I gave my heart. If you tell me it was madness, I can only shrug and sigh. If you ask me for a reason, I can't tell you why. Questo è Rossellini al tempo in cui scrive a Ingrid Bergman, un regista che vive l'impegno di mostrare al pubblico la realtà. Il cinema d'autore che cos'è? Dovrebbe essere? Dovrebbe essere l'impegno di un uomo che vive in mezzo alla società, che ha una facoltà, ha un mestiere per cui si può esprimere, deve metterla a servizio della comunità. L'ambiente in cui è cresciuto è certamente stato molto fertile per Roberto. Figlio di un costruttore romano, preferisce frequentare il cinema corso a Roma, costruito proprio dal padre, piuttosto che il liceo. Anche se non è proprio uno studioso, attraverso le conoscenze familiari, arriva a contatto col mondo del cinema. Segue i cineasti più famosi e intanto comincia a girare cortometraggi per suo conto, come Fantasia sottomarina, come ricorda la sorella. La prima fase concreta fu quando la Scalera Film, con il primo documentario Fantasia sottomarina che girammo sul terrazzo di questa casetta che ci avevamo alla Dispoli, con gli acquari, eccetera, questa favola di pesci, ebbe talmente successo che Scalera gli fece un contratto, per intanto per documentari. Erano 5.000 lire al mese. Il primo lungometraggio è del 1941, La nave bianca. L'esordio fa già pensare a una scelta etica, poiché il tema è l'attività della Croce Rossa. Nel 1942 è la volta di Un pilota ritorna, in cui c'è già qualche segno di un cinema moderno. Lunghi piani sequenza e una visione della guerra che è caos e può travolgere tutti, vincitori e vinti, militari e civili, anticipazione di tanti momenti di paesà. In questi primi film ci sono già gli interrogativi sulla persona e sul significato più generale dell'esistenza, che diventano dominanti nel suo grande cinema del dopoguerra, quello che colpisce tanto Ingrid Bergman, ma non solo. Ecco cosa ne pensa Martin Scorsese, che al regista italiano deve molto, così come tanti altri grandi del cinema internazionale. Ciò che realmente mi ha colpito, io che ero un bambino di 5 anni, è che tutto ciò sembrava autentico. Si potrebbe dire realistico, ma non è proprio il termine giusto. Sembrava autentico. L'ambientazione, i personaggi, sembravano vivere le emozioni, le scene di grande impatto e le situazioni difficili man mano che la macchina da presa li riprendeva. Rossellini è un innovatore e in fondo quello che Ingrid Bergman ha visto è il futuro del cinema. Il suo è un cinema trasgressivo rispetto a quello che vuole la distribuzione e il pubblico. Non ci sono attori famosi, non si descrivono personaggi consolatori. Nel 1946, con una produzione francese, Rossellini gira Germania anno zero. Le descrizioni della vita nella Berlino del periodo nazista le ha di prima mano da Marlene Dietrich, a Parigi in quel periodo con Jean Gabin. Ma le dive di fama internazionale a Roberto non interessano. La stessa lettera della Bergman avrebbe potuto indurlo a cedere alle lusinghe del cinema americano, ma lui, coerente come sempre, decide invece di fare l'operazione inversa e di innestare una grande star come la Bergman nel suo territorio. Cosa che riuscirà a fare non solo dal punto di vista professionale. Rossellini è per la vita vera. Il mestiere che ha scelto di fare è una missione. Così dovrebbe essere per tutti quelli che hanno delle cose da dire e lo possono fare. Odia la mitizzazione dell'artista, come ricorda la figlia Isabella. Mi ricordo che una volta disse: mi ricordo di aver visto delle persone guardare una cinepresa e guardarla come fosse una meteorite cascata da chissà dove, la guardavano così, ma per me è come una penna. E che stiamo a guardare le penne così? È quello che scrivi, non è quello che... non è il fenomeno. Quindi lui era completamente diverso. Destini incrociati. Destini incrociati oggi a Roma, è il 1948, e Ingrid Bergman, dopo aver scritto una lettera a Roberto Rossellini, offrendosi come attrice, decide di andare in Italia per girare un film con lui, Stromboli, Terra di Dio. Ancora non sa che quella scelta avrà grosse ricadute sulla sua vita personale e professionale al tempo stesso, ma dopo aver visto Roma città aperta e paesà, non può farne a meno. Il destino sembra chiamarla. Passare da Hollywood all'Italia è stata una mia scelta. Certo, non sapevo che Rossellini lavorava con attori non professionisti. È stato molto difficile lavorare con loro. Dopo aver lavorato per 10 anni a Hollywood e ancora prima in Svezia, dove gli attori conoscono bene i dialoghi, sanno muoversi sul set, con le luci, le inquadrature, le riprese sonore. Questi invece non sapevano neanche quando dovevano parlare. Io poi parlavo in inglese, loro in italiano perché i dialoghi sarebbero stati doppiati. È stato così difficile. A volte pensavo di non farcela. Si trovano a Stromboli e Rossellini sta girando la sua prima pellicola con l'attrice hollywoodiana. Lei è l'unica vera attrice nel cast. È quel nome che forse ci vuole perché i suoi film abbiano un respiro internazionale, perché siano visti da milioni di persone, così pensa Ingrid. Lavorare in quel modo, anche se a volte le sembra impossibile, la fa sentire viva. Sente che il regista italiano sta dando profondità alla sua carriera, fatta sino ad allora solo di ruoli pacati. Il protagonista maschile che la affianca in questa prima pellicola è un giovane marinaio, Mario Vitale, che ricorda così una delle sue scene girate con l'attrice. Facciamo le scene, le prime prove, 1, 2, 3, niente, Rossellini non era soddisfatto, riproviamo. Poi all'undicesima prova mi dice: oh, ma un ragazzo come te non è capace di dare due schiaffi a una donna? Dico, ma non è che non sono capace, dico, ma non mi viene, non... adesso ti faccio vedere come devi fare. Mi ha preso, dice, tu fai la Bergman e io faccio Mario Vitale. Allora dai, motore d'azione, dopo mi ha dato 4-5 ceffoni che per 4-5 giorni mi fischiavano le orecchie. E allora io ho detto vicino alla Bergman, avevo capito, mi era anche un po' incavolato perché lui mi ha colpito nel mio io. Non sei capace di dare due schiaffi a una donna, aspetta un momento. Dico, Ingrid, I'm sorry, scusami, come mi ha detto azione, ma l'ho tempestato, di... anche dei calci gli ho dato. Che poi lei è andata a finire dietro un tavolo e lì l'ho menata ancora, ma selvaggiamente. Lei, io ho visto che lei era terrorizzata, perché le botte gli facevano male. Poi dopo è finita, ah, Rossellini felicissimo, lei tutta scarmigliata, tutta rossa in viso, qualche parte sanguinava pure, mi pare, si è buttata addosso a me e diceva, my God, mio Dio, e poi disse, siete due pazzi. Sul set di Stromboli avviene l'inevitabile. Ingrid e Roberto si innamorano. I giornalisti fiutano la storia. Le chiacchiere cominciano quando l'attrice arriva ad Amalfi e viene immortalata mano nella mano col regista. La rivista Life non perde tempo e pubblica quello scatto. È subito scandalo. Il marito di Ingrid, Peter Lindstrom, si rifiuta però di prendere sul serio la notizia finché non riceve una lettera dalla moglie dove lei è molto chiara. Non torno a casa, mi fermo in Italia. Come può dimenticare la figlia, la carriera, l'America, che l'ha accolta con tanto calore per seguire un piccolo regista italiano? Ingrid, dal canto suo, è fermamente convinta. Non solo Roberto è il regista che cercava, ma anche l'uomo col quale trascorrere la sua vita. Peter non è l'unica vittima in tutto questo. Il rapporto con la Bergman chiude in modo drammatico la relazione del regista con Anna Magnani. La stampa americana costruisce ad arte lo scandalo del secolo. Ingrid Bergman, fino a quel momento considerata una santa, diventa improvvisamente un'adultera da lapidare e la stampa la definisce Hollywood's Apostle of Degradation, l'apostolo della degradazione di Hollywood, montando a suo sfavore una campagna denigratoria senza precedenti, soprattutto dopo aver saputo che l'attrice è incinta. Il dottor Lindstrom chiede il divorzio e ottiene l'affidamento della figlia Pia. All'epoca fu un grande scandalo. Gli fu chiesto di lasciare l'America e non le era più possibile tornare. Tutta la stampa era completamente contro di loro. Ottenuto il divorzio, può coronare il suo sogno con l'uomo che l'ha stregata attraverso la sua arte e diventare finalmente la signora Rossellini. Nel 1950 nasce Robertino. Nel 1952 seguono le gemelle Ingrid e Isabella. La sua vita ormai è in Italia. I suoi film sono quelli del neorealismo. Gli amici non mancano di inviarle lettere, di chiederle se è davvero quello che vuole. Hemingway, Hitchcock, Irene Selznick. Tutti si preoccupano per lei e per quella che sembra una decisione assurda. Ingrid però ad ognuno risponde la stessa cosa. Sono felice di quello che ho fatto. Ho seguito il mio istinto. Scivolando lentamente in una specie di mania. Paranoia pura, pura paranoia senza l'allegria. Come una spia che ti minaccia. Sto perdendo il tempo e la mia faccia. Il film Stromboli, terra di Dio in Italia ha un buon numero di spettatori, attirati più che altro dalla curiosità, mentre negli Stati Uniti registra un clamoroso fiasco, soprattutto per l'atteggiamento sfavorevole dei media. Seguiranno Europa 51, Viaggio in Italia, Giovanna d'Arco, un ruolo alla Bergman molto caro, ma sono tutti film ignorati dal pubblico. La vita si fa difficile per la ex diva di Hollywood, come ricorda Isabella. La vita era dura, non c'erano soldi, era tutto pericoloso, c'erano sempre cattive critiche ed io penso che lei non riuscisse a sostenere quel tipo di attacco che non arrivava solo dallo scandalo, ma anche dai film senza successo che avevano fatto insieme. Gli anni passano. E per Ingrid la scelta dettata dall'istinto, iniziata quella sera di primavera del 1948 fuori da quel cinema d'essai, dove ha visto per la prima volta Roma città aperta, comincia a farsi più pesante. Ha tre splendidi figli vicino a lei, ma la primogenita è distante. La sua carriera sembra non darle più le soddisfazioni che aveva conosciuto a Hollywood. I suoi amici, l'ambiente in cui era abituata, non c'è più. Quell'orizzonte comincia ad andarle stretto. L'occasione di tornare alla sua vita arriva dopo 7 anni di lontananza da Hollywood, quando la Fox le fa una proposta per un film ad alto budget, Anastasia. Prese le dovute precauzioni contrattuali, visto lo scandalo di cui è stata protagonista, la casa di produzione stabilisce anche il suo cachet, che è di soli $200,000. Un'inezia per la Bergman degli anni d'oro, ma una cifra che lei non si sente di rifiutare adesso, visto che questo film sembra il suo lasciapassare per tornare a Hollywood. Anche la sua vita privata sembra non essere più quella di prima. Roberto ha rivolto le sue attenzioni altrove. Partito alla volta dell'India per fare un documentario, torna con una nuova compagna, Sonali Das Gupta. È il 1956 e l'autentica Bergman ritorna a casa. Quell'anno Norma Jean, tutt'altro che un'attrice acqua e sapone del genere della bionda svedese, decide di cambiare il suo nome in Marilyn Monroe. Lo stesso anno, quasi come un sacrificio che il nuovo continente deve alla vecchia Europa, un'altra bionda lascia orfano il cinema hollywoodiano. È Grace Kelly, che in aprile sposa il principe Ranieri, trasferendosi definitivamente nel Principato di Monaco. Alla domanda di un giornalista sulle sue scelte passate, la Bergman risponde: Looking back on it, do you have any regrets about anything that you've done in the last few years, Miss Bergman? No, I have no regrets at all. I regret the things I didn't do. Anastasia è un grande successo. La Bergman è tornata ad essere quella di prima. La sua interpretazione le vale il secondo Oscar alla carriera. I'm Irene Thayer of the New York Post, chairman of the New York Film Critics. On behalf of myself and my colleagues, I'd like to present to you our plaque, the best acting by an actress, 1956. Your performance in Anastasia. Thank you very, very much. Pensare che solo l'anno prima l'Oscar come migliore attrice era andato alla sua vecchia rivale in amore, Anna Magnani, per La rosa tatuata. Hollywood è pronta a riaccoglierla. Nel 1975 vince un altro Oscar come attrice non protagonista nel film di Lumet Assassinio sull'Orient Express. La sua famiglia è decisamente lì, il suo ambiente pure. Non manca di mostrare la sua gratitudine a tutti. Quando sale a ritirare il premio, dichiara pubblicamente che, secondo la sua opinione, l'Oscar sarebbe dovuto andare all'amica Valentina Cortese, nominata per Effetto Notte di François Truffaut. And the winner is... The winner is Ingrid Bergman in The Murder on the Orient Express. Nel 1978 arriva dalla sua madrepatria la proposta di lavorare assieme al più prestigioso dei registi svedesi, Ingmar Bergman. Ingrid accetta e gira Sinfonia d'autunno, per il quale riceverà la sua settima nomination agli Oscar, la riprova che fare l'attrice è sempre stato il suo lavoro. E in tutta la sua carriera non ha mai mancato di dimostrarlo, anche quando i media l'hanno denigrata e il suo pubblico le ha voltato le spalle. Il 29 agosto del 1982, il giorno del suo 67esimo compleanno, Ingrid Bergman ci lascia. Quello stesso anno in Italia, il paese che le ha dato l'esperienza del neorealismo e di una nuova famiglia, ma dove è nato anche lo scandalo, alla radio si ascolta Loredana Bertè. Per i tuoi occhi ancora ho visto un po' di azzurro nella vita mia, due stelle giù in pianura che ci faranno male, e Loredana segue la scia. Destini incrociati. Destini incrociati. Testi di Morena Rossi e Simone Spoladori. Redazione Chiara Santilli e Isabella Marini. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.